sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te ogni istante. Era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare. Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te ogni istante. Era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amar. Ascoltami, perdonami, ritorna ancora vicino. Vigi.